con il coregista Alessandro Cassigoli per parlare del documentario Butterfly che sarà al cinema da giovedì 4 aprile 2019. Alessandro, ben trovato. Ciao, buonasera, grazie. Ci racconti un po' di questo lavoro? Per sintetizzare, è un documentario, come poi ci dicono tutti quando l'hanno visto, che sembra un film, nel senso che non rispecchia il documentario classico, soprattutto poi per quanto riguarda lo sport, e quindi con interviste che narrano le vicende spesso vittoriose di un protagonista, ma si sviluppa scena per scena, quindi senza interviste, senza voice-over, e che segue la vita di Irma Testa, questa ragazza di Torre Annunziata, dai 17 ai 20 anni, passando attraverso una bruciante sconfitta, ecco. Ci vuol dire un romanzo di formazione, nel senso che comunque poi parla appunto della crescita di questa ragazza appunto attraverso una sconfitta. Nello specifico è venuta alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Com'è nato tutto? Nell'ottobre 2014 stavo realizzando un reportage per la televisione nella palestra dove Irma è cresciuta, a Torre Annunziata, e lì l'ho, diciamo, brevemente conosciuta. Un anno dopo sono tornato con Casey Kaufman, che è l'altro regista del film, e stavamo cercando delle storie. Abbiamo passato un po' più di tempo con Irma e ci è piaciuta moltissimo, non tanto dal punto di vista agonistico, il fatto che già all'epoca fosse una pugile promettente, ma proprio per la sua sensibilità, la sua spontaneità, anche la sua fotogenia, perché poi il suo volto parla anche in silenzio, e quindi ci piaceva molto, e da lì siamo partiti. Ovviamente poi, come si fa con i documentari, per cui rimanendo affascinati da un tratto, da un qualcosa, e poi iniziando un cammino che non sai bene dove ti porterà, perché ovviamente all'epoca Irma non si era neanche qualificata per le Olimpiadi, quindi era tutto ignoto, diciamo. Così si parte, poi è un percorso che poi è durato 3 anni, tutte le riprese. Quali aspetti della sua personalità ti hanno più impressionato? La cosa principale era che si percepiva come ci fosse altro nella vita, nella testa di Irma, oltre al pugilato. Spesso gli sportivi sono monotematici, no? Stanno sempre lì, parlano del loro sport, dei loro allenamenti, fanno una vita in un certo senso anche abbastanza chiusa, se si vuole. Irma invece era una ragazzina, appunto all'epoca addirittura 15enne, 16enne, che è appassionata di cinema, di letteratura, di viaggi. E tutto ciò andava poi già in contrasto con il tipo di vita che all'epoca faceva, che era comunque, lei stava già in ritiro ad Assisi, dove c'è il quartier generale della Nazionale di Pugilato, dove addirittura non poteva nemmeno frequentare la scuola, dove comunque non c'erano tanti amici se non gli altri pugili che erano lì. Quindi anche questo fuoco di questa ragazzina in contrasto già con questa vita dura ci sembrava molto interessante, ripeto, soprattutto per una sensibilità come quella di Irma, e quindi un po' da lì ha preso poi le mosse il film. Visto che ha avuto un processo di più anni questo lavoro, come hai deciso poi di strutturarlo? L'abbiamo semplicemente seguita, primo anno e mezzo fino alla sconfitta di Rio. Dopodiché abbiamo lavorato con uno sceneggiatore, Guido Iuculano, uno sceneggiatore principalmente di cinema, con il quale ci ritrovavamo e cercavamo di capire quali erano le linee interessanti da seguire nella vita di Irma, proprio perché spesso quando fai documentari ci sono due modi di girarli. Uno è quello di girare centinaia e centinaia e centinaia di ore, poi trovarsi in montaggio e decidere, ok, qual è la storia, cosa racconto. Oppure c'è una maniera un po' più mirata, nella quale già durante le riprese vai a filmare, ad analizzare dei punti ben precisi. Noi abbiamo lavorato così, e quello su cui eravamo concordi anche con lo sceneggiatore, che a noi interessava, era soprattutto l'aspetto della vita privata di Irma, soprattutto familiare, quindi dei rapporti con la madre, del rapporto col fratellino più piccolo, che insomma non andava più a scuola e che Irma non aveva mai seguito, rapporto con un padre assente, per cui questa madre che regge questa famiglia con questi quattro fratelli. Quindi ecco, abbiamo mirato molto lì, e poi a un certo punto naturalmente tutto si è poi agganciato di nuovo al pugilato, perché poi insomma Irma poi alla fine decide, dopo una lunga crisi, poi di tornare al pugilato. Come ha reagito a questo ritratto? Inizialmente non è stato facile, perché comunque, pur essendo una truppa piccola, eccetera, in qualche modo invadi, no? La vita di una persona, anche la riservatezza di una persona, per cui, e anche per Irma non era facile capire realmente cosa stessimo facendo e quanto sarebbe stato il tempo dovuto per realizzare questo film. Per cui inizialmente non è stato facile. Dopodiché Irma ha preso fiducia a noi, ci siamo conosciuti, come succede sempre, siamo entrati nella sua famiglia, siamo entrati a far parte in qualche modo della sua famiglia, e quindi anche lei si è data fino poi a, credo in qualche modo, ad utilizzare poi questo film, e quindi anche il fatto di mettersi a nudo rispetto a una sconfitta, l'ha utilizzato anche lei per crescere. C'è stato un momento, io considero sempre poi in qualche modo la vera fine di tutto questo percorso, che è stato alla prima che abbiamo fatto. Questo film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre, e lì, durante la proiezione, Irma era la prima volta che vedeva questo film, e durante le immagini della sua sconfitta alle Olimpiadi, lei è esplosa in un pianto, era quasi una specie di attacco di panico, e secondo me in quel momento catartico lei in qualche modo ha superato quella sconfitta, e infatti da lì in poi, anche a livello proprio di risultati sportivi, sta andando molto bene. La scorsa settimana ha vinto un oro agli europei in Russia, e quindi credo che poi alla fine per lei questo film in qualche modo l'abbia anche aiutata, ecco, a livello proprio personale. Che tipo di distribuzione sarà? Il film è prodotto da Indica, che è una produzione di Torino, con Rai Cinema e con vari fondi regionali, Toscana, Piemonte, Campania. E è distribuito dall'Istituto Luce. E allora, la distribuzione appunto partirà il 4 aprile, ci sarà un'anteprima a Roma il 3, però diciamo dal 4. Quello stiamo cercando, spesso quando escono i documentari si fanno queste, diciamo, proiezioni evento, quindi si proietta il film una volta in una città e finisce lì. Noi abbiamo, grazie all'aiuto poi di alcuni cinema che ci stanno ospitando, abbiamo cercato di avere una distribuzione leggermente più lunga, per cui dovrebbero essere, poi dipende dalle città, ma in generale ci saranno tipo 2 giorni di programmazione, poi la settimana dopo altri 2 giorni, e questo anche per dare modo a un passaparola di svilupparsi. Per cui a Roma saremo ospiti al Cinema Aquila, e appunto ci sarà la prima, che sarà il 3, però poi entra in programmazione dal 4, il 5, il 6, e poi verrà ripreso la settimana successiva. E così ci stiamo muovendo, insomma, un po' nelle principali città italiane, per cui Napoli, Milano, Bologna, Firenze, Torino. Per un documentario non è poco, Sì, ecco. e allora ricordiamo l'uscita in sala del documentario Butterfly al cinema da giovedì 4 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al coregista Alessandro Cassigoli. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e un saluto a tutti.